Io avevo preparato una specie di, ho scritto un articolo in questi giorni e l'ho voluto dedicare proprio a Valerio Marchi, perché secondo me se fosse stato ancora in vita lui si sarebbe ricordato del cinquantesimo della rivolta di Genova contro il governo Tambroni e contro i fascisti, la famosa rivolta delle magliette a strisce. E quindi io ho fatto questo articolo dicendo, visto che manca Valerio, spero in qualche modo di tappare un buco di questa scomparsa incredibile. Una premessa su Valerio lo volevo fare ed era sul fatto che io da quando sono piccolo, anche perché sono un allievo di Primo Moroni che mi ha inculcato una teoria, una cosa che mi è rimasta impressa per sempre, e lui sosteneva praticamente che ci sono due università, quella accademica normale e quella della strada, che si equivalgono completamente. Solo da un certo punto di vista si divaricano, perché se da una parte con l'accademica c'è sempre la questione meritocratica e comunque gerarchica tipica dell'accademia, quindi il grande professore e tutti gli altri sotto come una piramide, mentre invece nell'università della strada, soprattutto con coloro che capiscono che certe dinamiche, certi conflitti sia individuali che collettivi si basano sul rapporto fisico e dialettico ma diretto, si capisce subito che non bisogna creare dei poteri quando si mette nell'ottica di condividere i tuoi saperi. Ecco, secondo me in questo Valerio Marchi era plurilaureato nell'Università della Strada. E quindi, insomma, i ragazzi con le magliette a strisce sono indubbiamente è la prima volta che un simbolo, un costume che nasce così spontaneo dai giovani è unito direttamente alla rivolta di piazza. E cosa è successo il 30 giugno di 50 anni fa, quindi ieri era proprio l'anniversario. Praticamente c'era un governo Tambroni che era appena nato, il democristiano, con grazie a 14 voti dei fascisti, e questi voti dei fascisti avevano deciso, per fare pressione su ormai un fascismo uscito dalla storia nel 1960, avevano deciso di fare una grossa provocazione ai missili di allora e fare un convegno proprio a Genova, medaglia d'oro della resistenza. Vabbè, nel giro di pochi giorni praticamente c'è stato un grosso tantam, e siccome questi ragazzi, che poi come dopo racconterò, avevano voglia di caratterizzarsi in qualche maniera, decisero di andare a comprare delle magliette a strisce, 300 lire nei primi grandi magazzini che c'erano, e se le misero addosso e furono loro che guidarono gli scontri, ma una cosa completamente fuori dalla organizzazione o del PC o anche dei partigiani e quant'altro. Riuscirono a fare questi scontri e ebbero l'aiuto dei vecchi partigiani, si dissero che anche c'erano delle armi, quindi la polizia si spaventò in qualche maniera, e alla fine riuscirono a vincere questa cosa qua, perché il convegno dei fascisti non fu fatto. Una grande rabbia dei fascisti, che non a caso Fiore in questi giorni ha voluto ritornare, Fiore di Forza Nuova ha voluto tornare, e giustamente ci sono stati anche degli scontri per cacciarlo via, perché era un'ennesima provocazione 50 anni dopo. Ma la cosa interessante del rapporto tra magliette a strisce, tutti gli studi di Valerio, e del rapporto tra rivolta dello stile e rivolta reale per le strade, è una cosa che almeno personalmente a me ha colpito tantissimo quando ero ragazzino, quando ero punk, e soprattutto perché questi ragazzi sapevano di scendere in piazza e di rischiare grosso, perché la situazione lì era veramente pesa, c'era la polizia che l'aveva giurata, chi sarebbe uscito, che era la 20 anni. Raccontato che gli anni di piombo sono stati negli anni 70, ma se andiamo a reggere i resoconti è stato negli anni 50 che si moriva in piazza perché ti sparavano, sostanzialmente erano quelli gli anni di piombo vero. Infatti nel luglio 60, poi nelle altre manifestazioni, soprattutto a Reggio Emilia, a Roma stessa, a Bologna e in Sicilia, moriranno 11 compagni, tutti giovanissimi. I famosi morti di Reggio Emilia avevano una maglietta striscia anche loro, per intenderci, no? Però sapevano di rischiare grosso, eppure sono andati in piazza convinti che questo andasse fatto, che quello era il loro dovere per non far sì che la storia si potesse ripetere. Ecco, su questa cosa qui del dovere, che forse in tutti questi 50 anni poi è andata via via sgretolandosi nelle culture giovanili, Valerio aveva fatto delle riflessioni che almeno a me personalmente mi hanno sempre molto stimolato, e per questo ho voluto arrivare a fare un ragionamento sulle magliette a strisce, perché comunque queste magliette a strisce, appena me le hanno raccontate, a me sono rimaste proprio impresse, e me le ha raccontate primo Moroni, quando ero un giovane punk, proprio ero vestito di nero però avevo i capelli piedi verdi, non so che cazzo avevo, e comunque come tutti i punk di quel periodo, gli skinhead pure, siccome era un periodo di grande riflusso, il costume, i nostri indumenti era proprio uno dei pochi mezzi, oltre a fare concerti, per esprimere la nostra rabbia, la nostra ribellione, quando era un periodo che c'erano i nostri fratelli maggiori che avevano fatto quasi la rivoluzione, in quel periodo non c'era più niente, qualsiasi cosa facevi di minimamente sovversivo ti mandavano subito in galera, quindi erano un vero e proprio strumento per noi. E quindi Primo, conoscevamo da pochissimo, ci raccontò la storia del luglio 60 a Genova, e lui era strepitoso a raccontare le storie, sembravano dei film hollywoodiani, noi eravamo veramente, pendevamo dalle sue labbra quando ci raccontava. E in questo articolo qua, uscito per Carmilla, prendo spunto da una registrazione che ho ascoltato di Primo rispetto a luglio 60. Andammo sulle barricate a fare cazzotti con i celerini e i carabinieri che difendevano i fascisti. Eravamo tutti giovani, generosi e intransigenti. Ripeto, giovani, generosi, il concetto di generosità, di buttarsi in prima linea per far sì che la storia non si ripeta, e intransigenti, estremisti. Portavamo i jeans, avevamo il mito dell'America, e siccome i soldi in tasca erano pochi, ci vestimmo con delle magliette comprate a 300 lire nei grandi magazzini. Non ci interessava una vita passata solo lavorando, qui siamo nel 60, e sono proprio le prime volte che le culture giovanili si fanno vedere praticamente. Non volevamo fare una passata solo lavorando, venivano da quasi 20 anni, 15 anni di ricostruzione, quindi il concetto del lavoro era ben radicato, no? Preferivamo guadagnare meno ma avere più tempo libero, però quando ci fu da protestare non ci tirammo certo indietro. Capito? Avevano il mito dell'America, gli piaceva il Teddy Boy, Elvis Presley, Marlon Brando soprattutto, no? Però quando c'è stata questa cosa qui, di difendere l'Italia dal ritorno del fascismo, loro ci sono stati. Come mai nel giro di 50 anni questo senso del dovere, che in qualche modo anche noi punk, quando Primo ci raccontava, avevamo assorbito, è andata via via dilatandosi fino a quasi sparire? Questa è la domanda base che secondo me Valerio avrebbe posto a tutti noi. Un'altra premessa nel rapporto con Primo, queste magliette a strisce ci misero anche in contraddizione noi punk. Perché? perché chiaramente quando sei giovane, vieni da una cultura di strada, pensi di riuscire a cambiare il mondo e con i tuoi strumenti, se pensi che siano quelli più moderni, quelli più innovativi, e vaffanculo tutto il resto che c'è dentro. Non a caso il punk, se ben ci ricordiamo, dicevano never trust the hippie, non avere nessuna fiducia in persone che hanno più di 30 anni. Vabbè, primo ci aveva subito segato le gambe, per primo facendoci vedere una foto che aveva dietro le spalle, che ritraeva la banda Bonneau, che erano anarchici, rapinatori di banche degli anni 20 in Francia, e ci fece vedere che loro erano vestiti di nero come noi, vivevano in una comune come noi, che avevamo tutti al virus, erano pure vegetariani come tutti noi. E quindi poi ci raccontò che nemmeno le magliette a strisce erano una grande novità, anche perché, sempre restando nel campo di Milano, ci aveva fatto l'esempio della Volante Rossa, che aveva preso i giubbotti di pelle dell'aeronautica militare americana, che giravano così, nella seconda metà degli anni 40 giravano con questa tuta qui, per farsi riconoscere e andare a beccare i fascisti che si stavano già riprendendo allora. E poi dopo chiaramente ci raccontò dei cappelloni beat che inneggiavano al libero amore, avevano i capelli lunghi per riconoscerci, e più ancora avanti anche i famosi trench bianchi della banda Bellini, che poi dopo saranno per me importanti, perché ci farò sopra un video. Ma ritornando un certo filo rosso nel rapporto tra rivolta contro l'autorità costituita e un simbolo che assume diventa simbolo delle persone che scendono in piazza a protestare, era nelle magliette bianche, nelle magliette a strisce, una cosa importantissima. E quindi io qui ragiono cosa li mosse. Non erano le bandiere rosse quelle che sventolavano, erano semplici magliette comprate al discount, ma soprattutto perché dopo il 1960 non ci fu più niente di così dirompente nel rapporto tra simbolo della rivolta e impegno politico. Se dopo tanti anni si potrebbe anche affermare che forse siamo stati noi, che non siamo stati, Valerio compreso, non siamo stati capaci di tramandare come primo invece ci aveva tramandato noi, però in realtà una delle cause più importanti resta il fatto che i ragazzi della maglietta a strisce non furono così irrimediabilmente ostacolati dai loro rappresentanti istituzionali, sostanzialmente questo, come invece capita a noi. I rappresentanti istituzionali, già qui parlo all'inizio degli anni 80, 81, c'era, ad esempio a Milano c'era il Partito Socialista, i comunisti che stavano per il PC, che già allora stava sparendo, no? Quindi i rappresentanti istituzionali non c'erano proprio. Nel 1960, adesso vi voglio leggere anche, invece non era così affatto. Ci furono delle prese di posizione ben specifiche di tutti i parlamentari, sia comunisti che socialisti, a favore di questi che stavano organizzando la manifestazione contro i fascisti, insomma, lì a Genova. E siccome per fare questo articolo mi sono letto un po' di libri, e sono capitato su un famoso comizio che è stato il 28 giugno 1960, cioè due giorni prima degli scontri, neanche di un comunista, di un socialista, Sandro Pertini, che poi vabbè, Sandro Pertini è una figura un po' complicata, ma allora nel 1960 era assolutamente una persona che stava ancora da questa parte della barricata, da parte sicuramente dei ragazzi di strada, come vedremo. E lui è salito sul palco, 30.000 persone antifascisti sotto il palco, e lui dice, queste sono le sue parole vere, le autorità romane sono impegnate a trovare quelli che ritengono i sobillatori, dice, gli iniziatori, i capi di queste manifestazioni di antifascismo. Non c'è bisogno che s'affannino, disse. lo dirò io chi sono i sobillatori, eccoli qui, sono i fucilati del Turchino, della Benedetta, dell'Olivetti, di Cravasco, sono il torturatore della casa dello studente che risuona ancora delle urla strazianti delle vittime e delle risate sadiche dei torturatori. Dopo questo comizio Pertini fu chiamato Ubrighetto, che in dialetto genovese vuol dire il fiammifero, cioè colui che accese la fiamma della sollevazione popolare. Continua così: io nego che i Messini abbiano il diritto di tenere a Genova il loro congresso socialista, adesso ci sono addirittura per di fondazione o di dicono che i fascisti hanno in qualche modo il diritto di fare i loro congressi. Ogni iniziativa, ogni manifestazione di quel movimento è una chiara esaltazione del fascismo. Si tratta del resto di un congresso qui convocato non per discutere ma per provocare e contrapporre un passato vergognoso ai valori politici e morali della resistenza. Oggi i fascisti la fanno da padrone, sono di nuovo al governo, giungono addirittura a qualificare come un delitto l'esecuzione di Mussolini. Ebbene, io mi vanto di aver ordinato la fucilazione di Mussolini davanti a 30.000 persone disse questo. Perché io e gli altri membri del CNL, del CLN, non abbiamo fatto altro che firmare una condanna a morte pronunciata dal popolo italiano 20 anni prima. Pertini, poi sappiamo tutti cosa è diventato, addirittura è andato a metà degli anni 80 a dare le medaglie al valor militare ai torturatori di Leonardo e dei compagni brigatisti di Padova, di torturarlo a morte per chi gli diede la cosa, però in questa fase del 1960 indubbiamente fece questa cosa qui da Ubrighetto, il fiammifero che sollevò la sollevazione popolare e in qualche modo a me piacerebbe fare addirittura una specie di fiction di un ragazzo che ascolta Pertini e poi va a comprarsi la maglietta a strisce convinto che comunque da qualche parte qualcuno l'avrebbe difeso. E non è un caso che comunque dopo anche i casini di Reggio Emilia, ma anche a Bologna, dove ci fu il responsabile del PC che venne caricato mentre faceva il suo comizio a favore dei ragazzi di maglietta a strisce a Bologna e lì ci furono pure degli scontri, anche i dirigenti del PC portarono avanti una critica. E nei libri che ho letto, che vi voglio citare perché sono bellissimi, insomma, il più bello sicuramente L'estate a maglietta a strisce di Diego Colombo, uscito nel 2007 per Sedizione, che è un libro stupendo, ma anche quello che è appena uscito di Annibale Paloscia che si chiama Al tempo di Tambroni, e poi Il nemico interno di Cesare Bermani, dove sono tutti i racconti orali dei ragazzi della maglietta a strisce. Per dirvi però che anche il PC si fece delle menate assurde, no? Diceva la gioventù è sotto una direzione che non è nostra, stiamo perdendo il rapporto con le masse popolari in rivolta. Erano preoccupati perché alla FGC c'era stato un calo mostruoso di iscrizioni da 365.000 nel 1956 a 200.000 nel 1960, quindi persero quasi la metà degli iscritti, quindi erano veramente molto sfiduciati anche. C'era chi accusava i giovani di aver subito una deteriore influenza del clericalismo e dell'americanismo, appunto. Però c'era qualcuno come Carlo Levi, ad esempio, lo scrittore, che diceva ai giovani: spingere con la forza, non tacere, dovete usare la vostra forza per sovvertire, protestatelo, fatelo voi che siete giovani. Carlo Levi, che allora aveva 60 anni. Questo per dirvi la differenza che c'era. Addirittura diceva: questi fatti impongono un esame approfondito e un'elaborazione e la modificazione di programmi di metodi, lo studio preciso di fini concreti nati dalla coscienza popolare, quindi come erano vicini a questa cosa qua. La fiducia rinata attraverso l'azione è un bene prezioso che non può essere deluso e dissipato. E quindi in qualche maniera, che poi dopo veramente siamo rimasti quattro gatti, io, Riccardo, Luca e Valerio, fin quando c'era, a portare avanti in qualche maniera, essere amico, essere fratello dei ragazzi di strada. Negli anni 60 non era così, erano addirittura i rappresentanti che dovevano fare il loro dovere. Ma la cosa più pazzesca, riportata 40 anni fa, cioè 10 anni fa con Genova, è vedere che poi tutti questi ragazzi delle maestre strisce, sono stati più di 150 che sono finiti in galera, hanno fatto anche 2-3 anni, solo 2-3 anni, non come invece quelli che rischiano anche 10-12 dopo gli scontri di Genova. Ma però la cosa più pazzesca è che tutto l'apparato del PC mandò i suoi migliori avvocati a difendere questi ragazzi. Qui invece si parla di Genova, ancora un'altra volta, di Genova, dove i parlamentari nostri non sono riusciti neanche a fare una commissione d'inchiesta per i fatti di Genova. È pazzesco questo. Tra l'altro gli avvocati dei ragazzi delle magliette a strisce erano Giovan Battista Lazzagna, che era un capo partigiano, che era anche lui un aiutante del costituzionalista, Terracini, che era un avvocato che era il capo del collegio che li difendeva. Umberto Terracini era del PC, era un costituzionalista ed era il miglior avvocato dell'apparato del PC di allora e scese per difenderli. E questa è la differenza che c'era in qualche maniera. Ecco anche la difficoltà che abbiamo avuto noi tutti, Valerio per primo, di riuscire a stare vicino a questi sommovimenti che nascono alla base sulle strade delle periferie cittadine.